e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, ricominciamo insieme un'altra settimana. Nicoletta, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori, riparte. Esatto, abbiamo tanti argomenti anche questa mattina. Naturalmente la borsa, come sempre, la fa da padrona in questa apertura di trasmissione, ma parleremo dopo anche di cultura in qualche maniera e certo, di iniziative di solidarietà, l'ho detta un po' alla larga, per parlare di filantropi e mecenati italiani dopo, un tema anche che sembra piuttosto ingombrante un po' per Cuore Denari, che si occupa invece un po' del piccolo risparmio, del piccolo portafoglio delle famiglie italiane, ma cercheremo di dare una declinazione interessante per tutti. Tu invece che cos'è in programma? Allora, poi mi abbiamo... parlerai un po' di inquinamento? Certo, me lo prometti? Inizieremo un appuntamento settimanale con il dottor Mauro Mocci dell'Associazione Medici per l'Ambiente. Puntualmente monitoreremo la qualità dell'aria come abbiamo fatto gli anni scorsi, dando anche dei suggerimenti a chi ci ascolta. E poi abbiamo un gradito ospite, ci raggiungerà tra poco Raffael Gualazzi, con cui faremo una sorta di bilancio di fine anno. Ci siamo quasi. Questa mattina la borsa è decisamente vivace, Milano più 1,17%, va in controtendenza invece il resto d'Europa, Parigi meno 0,10%, Francoforte meno 0,4%, Londra meno 0,10%, a Milano chiaramente il sostegno arriva dai titoli bancari che auspicano che si trovi una soluzione finalmente almeno questa settimana per Banca Monte dei Paschi, che guadagna l'8,72%. In ballo abbiamo da una parte l'intervento pubblico, che sarebbe comunque lì congelato, ma la banca vuole andare avanti da sola, a trovare risorse proprie per portare avanti le iniziative di sostegno del capitale, dunque potrebbe essere pronto l'aumento di capitale da lanciare questa settimana e la possibile conversione dei 2 miliardi di bond subordinati che sono collocati presso il pubblico indistinto, piccoli risparmiatori. Vedremo appunto se andrà a buon fine anche questa operazione. Per la banca potrebbero esserci in arrivo buone notizie. Detto questo, insieme a Monte dei Paschi stanno andando bene tutte le altre banche, come dicevamo UbiBanca più 4,60, Unicredit più 3,5 punti, è stata formalizzata la cessione di Pioneer al colosso francese Amundi per 3,5 miliardi di euro, e quindi altro tassello appunto del mosaico molto complesso che Unicredit sta componendo proprio per il suo rafforzamento di capitale. Questa pure è una buona notizia che sostiene tutto il resto del settore bancario. E stamattina volano anche i titoli petroliferi, Eni più 3,23%, con il petrolio che addirittura Londra ha toccato $57 al barile, siamo ai massimi da quasi 2 anni. E l'ultima notizia è che oggi è in programma, arriveranno i risultati tra poco, un'asta BOT per 4,75 miliardi di euro. Andiamo subito al primo approfondimento di oggi. Sulla borsa ci andremo nel corso della trasmissione, anticipo che domani ci occuperemo presumibilmente invece di tutto quello che bolle in pentola in casa Monte dei Paschi, perché comunque interessa non solo gli obbligazionisti subordinati ma anche i correntisti e gli azionisti di questa banca e tutti coloro che sono interessati alle vicende bancarie. Noi parliamo di altro adesso, perché Natale è sempre più vicino. Noi continueremo con il nostro Cuore e Denari a parlare dei soldi e della salute della famiglia per tutto il mese, mantenendo riflettori puntati sull'attualità. Proveremo però anche, passatemi il termine Nicoletta, che dice, ad alleggerire se vogliamo un po' il clima complicato per molte famiglie, affrontando anche questioni un pochino diverse dal solito. Allora, se siete a Roma martedì prossimo, il 20 dicembre, noi vi segnaliamo che torna l'appuntamento con gli Stati Generali della Cultura, che quest'anno avranno luogo, questo appuntamento avrà luogo presso l'Auditorium Parco della Musica. Quest'anno l'evento è dedicato alla nuova economia dell'arte e della musica. E allora, cosa ci siamo inventate questa mattina per affrontare anche noi l'argomento, mettendo in moto le rotelline della nostra mente? Ogni tanto sembrano un po' arrugginite, ma poi improvvisamente vanno. Ripartono. Allora, vogliamo raccontarvi chi sono i filantropi e i mecenati d'Italia, che cosa sono le erogazioni liberali e in che cosa consiste questa speciale misura fiscale che favorisce le donazioni a sostegno della cultura, l'Art Bonus. Da chi ce lo facciamo spiegare questa mattina? Abbiamo già pronti, collegati telefonicamente con noi, due ospiti, l'ingegner Carolina Botti, direttore centrale di ALES, che è la società al 100% del Ministero dei Beni Artistici e Culturali incaricata di gestire proprio l'Art Bonus. Ingegner Botti, buongiorno. Buongiorno a voi. Non declinerò col termine di genere, perché l'ingegnera a me non piace, ingegner Botti. Non so cosa anch'io ne... molto affezionata all'ingegnere. Prendiamocela con un sorriso stamattina. Chissà se si fa una bella risata anche il professor Giuseppe Ambrosio, che saluto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io la sua carica la dico una volta e basta, perché lei fa un milione di cose, e direi che questa mattina il biglietto da visita lo presentiamo una volta ai nostri ascoltatori, poi la smettiamo subito. È esperto di fundraising, docente al Master di Management delle Imprese Sociali all'Università Bocconi di Milano, professore a contratto di finanza dell'impresa sociale presso la LUMSA, sede di Taranto, ma soprattutto ha fondato molti anni fa Vita Consulting, una società di consulenza strategica in marketing e fundraising, ed è attualmente anche consulente di Unicredit e Unicredit Foundation. Perfetto. Parleremo, ecco qua, basta, se lo scordi poi che lo rifaccio. E soprattutto però è esperto, come dicevo, anche di filantropia italiana, e con lui ci faremo raccontare chi sono questi personaggi appunto nel nostro paese che donano magari un po' nell'ombra qualche volta, che è un po' anche quel tratto distintivo della filantropia e del mecenatismo italiano, dove vanno questi soldi, insomma, perché c'è tanto mondo di generosità ovviamente da parte di chi se lo può permettere, soprattutto che si muove e che permette anche a molti settori di sostenersi e andare avanti con grande successo. 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori che vogliono farci delle domande sul tema delle donazioni liberali. Potete mandare come sempre anche un messaggio al 349 238 6666 che funziona anche come WhatsApp. Allora, a proposito di biglietti da visita, ingegner Botti, comincio subito con lei. Ci spiega che cos'è, quando è stato introdotto l'Art Bonus, questo speciale credito di imposta che favorisce le erogazioni liberali? Dunque, la legge è del maggio 2014 ed è stata resa stabile proprio a gennaio 2016 ed è un regime fiscale agevolato per chi sostiene la cultura con donazioni in denaro. Prende il nome proprio di Art Bonus e di fatto è un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro che i singoli cittadini o le aziende fanno a favore del patrimonio culturale pubblico. Quindi, diciamo, riassumerei una legge di cuore denari. Hai visto l'ingegner Botti che si è preparata? Brava, è vero, insomma. La ringrazio molto per aver fatto questo riferimento, e quindi noi così allora facciamo un po' le madrine di questo incentivo fiscale. È strano farlo, però insomma oggi ci cimentiamo anche in questo. Ingegner Botti, l'incentivo fiscale è riconosciuto a tutti quei soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura. Nello specifico, la legge parla di soggetti con determinate caratteristiche, o anche io, persona fisica, posso fare una donazione liberale ed avere questo sconto fiscale in dichiarazione dei redditi? È assolutamente per tutte le tipologie, quindi persone fisiche, e si intende il privato cittadino di fatto, e gli enti non commerciali, tra cui ad esempio comprendiamo anche le fondazioni bancarie e le imprese, in generale il mondo delle aziende. Quindi di fatto è una norma accessibile a tutta questa tipologia di soggetti. Ci fa un punto delle donazioni da parte degli italiani? Abbiamo delle cifre recenti o che almeno si riferiscano, non lo so, al 2015? A chi sono state destinate prevalentemente? Guardi, abbiamo un aggiornamento a qualche giorno fa, per fare una sintesi delle erogazioni liberali ricevute fino adesso, e quindi più o meno stiamo parlando di un anno e mezzo di raccolta, e siamo a 132 milioni di euro, una cifra molto importante, devo dire un grande successo atteso, ma che non era assolutamente scontato, visto che si partiva veramente da numeri esigui. E la cosa, devo dire, molto interessante, anche per riallacciarmi alla domanda precedente, è che questi 132 milioni di euro sono stati dati da più di 3.700 mecenati, ma di questi 3.700, devo dire, la grande sorpresa è stato che circa 2.300 sono dei privati cittadini, il resto sono aziende, fondazioni. È chiaro che poi In realtà la parte economica dominante è sempre riferita al mondo delle aziende e delle imprese, però è molto interessante questa partecipazione, almeno numerica, di quelli che sono i privati cittadini. Tra l'altro sul vostro portale esiste proprio l'elenco pubblico dei mecenati e qui andremo al professor Giuseppe Ambrosio, però gli chiedo un attimo di pazienza, abbiamo il traffico, poi torniamo al nostro esperto di filantropia e mecenatismo, a tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Cuore e denari. Well, the idea that a computer was relevant to the problems they were dealing with, where getting enough food. Professor Giuseppe Ambrosio riconosce questa voce? No, è quella di Bill Gates. Bill Gates, esatto. E potevo immaginare, in effetti, perché è uno dei più grandi filantropi. L'ho messa in difficoltà, le ho fatto questo quiz a bruciapelo, per cui ci mancherebbe altro. Sì, ha fatto bene a ricordare che è uno dei più grandi filantropi al mondo, ovviamente le sue risorse finanziarie glielo consentono altro, però è molto emotivamente predisposto a queste iniziative che lui ha avviato tantissimi anni fa, fondando la fondazione in nome di suo padre nel 94, poi nel 99 la fondazione ha cambiato nome, è diventata Bill e Melinda Gates Foundation. E volevo raccontare questo episodio. L'evento che ha fatto scattare in lui e sua moglie la molla del filantropismo fu una visita ad un ospedale africano, da lì poi il suo impegno a sostenere tantissimi progetti umanitari. Finanziano oggi qualcosa come progetti umanitari appunto per 28 miliardi di dollari. Ma ci fa un po' invece il profilo, professor Ambrosio, del filantropo italiano, ricordando che un conto è il filantropo, un conto è il mecenate, che sono due discorsi diversi, no? Lo spiega ai nostri ascoltatori? Ma diciamo che, allora, come dire, una caratteristica, diciamo così, il mecenate è una caratteristica più rispetto al filantropo, cioè la filantropia di fatto è un, diciamo così, in generale, una sensibilità delle persone, degli individui, a svolgere attività, a dare danari a favore di qualche causa, di qualcuno che è nelle condizioni di bisogno, di organizzazioni non profit. C'è questo spirito generale, come dire, uno spirito appunto che si dice filantropico, nel senso di avere a cuore il destino o le sorti di qualcun altro, di qualche causa. Il mecenatismo di fatto che cos'è? È una sorta, è uno strumento, una modalità attraverso la quale un filantropo prende a cuore, in realtà nelle arti, nella cultura, prende a cuore un artista o un settore artistico e lo fa crescere avendo questo ruolo appunto da mecenate, cioè da mentor, da supporto, che non è soltanto un supporto economico, ma è anche, diciamo, in termini di energie, no? Di spinta ad andare avanti. Quindi questo è il mecenate. Il mecenate di fatto è qualcuno che prende sotto la propria ala un qualcuno. Nelle arti, nella cultura, storicamente erano appunto artisti, e poi lo porta avanti, lo fa crescere, poi lo lancia, diciamo, all'interno del mercato, degli spazi, eccetera. Quindi chi finanzia un ente con l'obiettivo di ottenere l'art bonus di cui abbiamo parlato all'inizio è un mecenate, non è un filantropo. Sì, diciamo così, che lo spirito di chi finanzia con l'art bonus è uno spirito filantropico, comunque, di sostegno, certo. No, ecco, però lo fa attraverso una formula che è quella di prendersi in carico un'opera o un museo, di prendere in carico e portare avanti, immagino e spero per un po' di anni, per un lungo periodo, perché il mecenate poi si distingue anche da questo punto di vista, è una persona, un qualcuno che segue per diverso tempo e che quindi dà la possibilità alle cause, alle attività di andare avanti e di strutturarsi, di rafforzarsi, ecco, non è un one shot che viene fatto così, certo. Una volta, una tantum. Quanto donano, professor Ambrosio, gli italiani rispetto agli altri paesi? Ma allora, diciamo che quanto donano, noi abbiamo una rilevazione dell'Istat, che è l'ultima rilevazione, diciamo così, formale, che è quella del 2011, in cui si dice più o meno che le donazioni sono, diciamo, intorno ai 4 miliardi e mezzo di euro su base annuale, quindi sono calcoli fatti sui bilanci delle organizzazioni non profit del 2010. Ora, è un dato dal mio punto di vista sottostimato, quindi dire che l'Italia dona 4 miliardi e mezzo è in effetti sottostimato, perché considerate una cosa, questo dato ci deriva dai bilanci delle 300.000 organizzazioni non profit, cioè sfuggono a questa statistica una serie di atti filantropici importanti, peraltro. Cito per esempio, giusto per capirci, gli atti filantropici diretti alla Chiesa Cattolica, e quindi non abbiamo poi una dimensione statistica completa. Quindi possiamo dire che 4 miliardi e mezzo di certo, e poi sicuramente qualcos'altro in più. Rispetto ai livelli europei siamo messi bene, nel senso che il, diciamo, per esempio il primo paese che in Europa dà di più è UK, in Gran Bretagna, che ha 11 miliardi di sterline. Quindi il dato nostro è un dato, diciamo, noi siamo tra i secondi e i terzi, cioè battendo con la Germania, diciamo, quindi siamo a un livello, diciamo, interessante dal punto di vista di complessivo. La perdiamo ogni tanto con il telefono, pur avendoci dato un apparecchio fisso. Adesso vediamo magari se riusciamo a ripristinare la telefonata col professor D'Ambrosio, quindi ne approfitto per ritornare dall'ingegner Carolina Botti. Esistono anche delle indicazioni precise nella normativa che regolamenta l'art bonus, ingegner Botti, relativamente agli enti o le istituzioni, le organizzazioni che possono ricevere la donazione liberale, in base alla quale poi ottenere questo sconto d'imposta da cui siamo partite? In realtà l'art bonus nasce prevalentemente come sostegno al patrimonio culturale pubblico, quindi è chiaro che le istituzioni di riferimento principali per le donazioni sono da un lato il Ministero dei Beni Culturali, dall'altro gli enti pubblici territoriali come ad esempio i comuni, le province, le regioni. E poi abbiamo anche questa specificità delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, quindi questi sono i target principali. Va anche specificato che se ci sono concessionari o affidatari di beni pubblici, anche se questi sono ad esempio dei privati, ma appunto hanno in gestione in affidamento un bene di proprietà pubblica, anche verso queste entità si possono effettuare donazioni. E la legge è molto chiara anche a proposito degli scopi, no? A cui deve essere destinato. Esatto, sono prevalentemente manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, ad esempio di un monumento, un edificio storico, un'opera d'arte. Oppure abbiamo il sostegno, cosa anche interessante proprio per la vita, per la missione, di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, oltre che per le fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione. È anche possibile la realizzazione e il restauro di strutture pubbliche destinate esclusivamente allo spettacolo, ad esempio un cinema comunale, un teatro comunale da ristrutturare. Quindi questi sono i target principali delle erogazioni liberali. Che cosa è tenuto a fare, ingegner Botti, il mecenate che si candida a effettuare un'erogazione liberale per ottenere lo sconto fiscale? Ma io credo che l'obiettivo principale di un profilo come questo non è esattamente approfittare appunto dell'incentivo che il fisco garantisce. Detto questo, c'è però anche questo vantaggio. Ma che cosa è tenuto a fare colui che effettua l'erogazione liberale? Appunto, ha degli adempimenti specifici? Guardi, sì, particolarmente gravosi, fastidiosi, non so. No, la ringrazio per la domanda, perché credo che sia poi l'aspetto distintivo di questa norma, che è proprio la trasparenza e la semplicità. Senta, ingegner Botti, allora, siccome mi pare di capire che la risposta è un po' lunga, dobbiamo sentire il giornale radio, se la tenga in caldo, perché ce lo spiega appunto questo concetto subito dopo le informazioni dalla redazione. Nicoletta, che andiamo. Dice? Andiamo, a tra poco. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Aceto balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Però poi evidentemente durante gli anni della crescita, della maturità, qualcosa in questo romanzo, qualcosa si spezza. Devo dire che quando racconto un po' in brevissimo tempo la storia, la trama di questo romanzo, non c'è persona, donna o uomo che non mi dica: anche io avevo un amico del cuore, un'amica del cuore, ma poi qualcosa si è rotto, qualcosa si è spezzato. E non si spezzerà mai invece la nostra amicizia con Francesca. Allora io non voglio piangere, no, perché Francesca non l'avrebbe voluto. Uh-huh. Una donna che ha amato e ci ha insegnato ad amare la vita, coraggiosa, con quel suo sorriso sbarazzino, con quel lo sguardo che ti trasmetteva energia, un'energia che ha trasmesso a tutte le donne, quindi la battaglia l'ha vinta, perché non ha vinto la sua, ma ha aiutato tutte le donne, tutte le persone che l'hanno conosciuta ad amare la vita e a rispettarla e a continuare a fare progetti. Li ha fatti fino all'ultimo. Io mm-hmm. mi ricordo che ci abbracciavamo mm-hmm. e ci davamo l'energia, e quindi lei, che è un freezing, anch'io non sono un colosso, però era quell'abbraccio che Francesca dava poi a tutte le persone che incontrava. E noi con questo ce l'hai fatta Nella modalità in cui Francesca avrebbe voluto e in cui avrebbe voluto anche Alessandro, in cui vuole Alessandro, che in questo momento si ricordi appunto Francesca. Detto questo, torniamo al nostro argomento di oggi. Ne abbiamo tanti, per la verità. Nella prossima ora mi riprendo per un attimo l'Art Bonus con l'ingegner Carolina Botti del Ministero dei beni e delle attività culturali, che ci sta spiegando proprio come funziona questo incentivo fiscale di cui vogliono approfittare filantropi e mecenati d'Italia. Poi con noi anche il professor Giuseppe Ambrosio, un grande esperto di fundraising e di filantropia italiana. Ho scherzato a lungo con lui per il suo ricco curriculum, e ci sta spiegando invece proprio qual è il profilo del mecenate, del filantropo italiano. Tutto questo perché abbiamo voluto anticipare ai nostri ascoltatori che settimana prossima c'è un importante evento a Roma, gli Stati Generali della Cultura, quindi per tutti gli appassionati possono anche andare a fare un piccolo blitz all'Auditorium Parco della Musica, proprio per controllare il contenuto che esce da questo evento. Allora, ingegner Botti, stavamo completando con lei in ragionamento di quegli adempimenti, tra virgolette, che sono a carico del mecenate che vuole fare una donazione di scopo, naturalmente a fine culturale, come dicevamo prima, un'erogazione liberale, perché in gergo si chiama così, oltre per ottenere l'incentivo fiscale, ma anche perché animato da uno spirito preciso, perché il mecenate si muove secondo appunto questo spirito. Quali sono gli adempimenti a suo carico? Ce lo può spiegare? Sì, stavo proprio sottolineando che uno degli aspetti innovativi di questa norma è la semplicità e la trasparenza. Semplicità perché chi vuole effettuare un'erogazione liberale verso quei beni ammissibili di cui abbiamo parlato prima, basta che effettui un'erogazione liberale in denaro attraverso uno dei sistemi tracciabili, come ad esempio un bonifico, un versamento su un conto corrente intestato al beneficiario e così via. Quindi prendiamo l'esempio del bonifico, un bonifico con una causale ben precisa che richiami il beneficiario e l'oggetto della donazione mettendo il proprio codice fiscale o partita IVA. Basta, quindi è sufficiente questo gesto molto semplice, fatto anche dal proprio internet banking o dovunque si voglia. E quindi se sei un privato cittadino lo si porta nella dichiarazione dei redditi, se si è un'impresa lo si può utilizzare in compensazione già dal 1 gennaio dell'anno successivo al versamento, a scomputo dei versamenti dovuti. Quindi una cosa di estrema semplicità che ha, devo dire, incentivato di molto le erogazioni liberali. Il tutto è visibile sia quindi per ciò che riguarda i beni, per così dire, in vetrina a cui si possono effettuare queste donazioni, ma anche le possiamo trovare sul vostro sito, ingegner Botti? Si possono trovare su questo sito del Ministero, www.artbonus.gov.it, dove tra l'altro si trovano anche tutte le informazioni che chiaramente non abbiamo potuto dare oggi come dettaglio, ma che effettivamente danno un quadro complessivo di cosa si può fare e come si deve fare. Certo, quindi insomma, se Nicoletta Carbone voresse fare una donazione liberale per la ristrutturazione della biblioteca di Bozzole, certo, probabilmente presumibilmente puoi trovare lì tutte le indicazioni, i parametri, o la strada. Se non c'è, si può incentivare il proprietario pubblico a... ci possono anche manifestare avviare, delle candidature. Esatto, ad avviare una raccolta fondi, certo, in questa direzione. Che cos'altro dobbiamo sapere dell'Art Bonus, Ingegner Botti? Poi la salutiamo, faccio un'ultima domanda al professor Ambrosio, poi vi salutiamo e diamo spazio al nostro secondo argomento. Che cosa c'è da dire che non abbiamo detto? Io penso che sia, come dicevamo all'inizio, una legge buona che aiuta veramente i cittadini ad avvicinarsi alla cultura, al proprio patrimonio, e le aziende a guardare in un'ottica diversa la propria responsabilità sociale d'impresa. Professor Ambrosio, lascio chiudere anche lei la nostra chiacchierata appunto sulla filantropia, il mecenatismo all'italiana. Sappiamo bene che spesso in genere chi dona non vuole farlo sapere, no? Eppure sul portale invece che ci indicava l'ingegner Botti è tutto pubblico, e questo in realtà ci può dare anche la misura del fatto che tutto quello che è pubblico, quindi tutte quelle donazioni di cui sappiamo, in realtà possano costituire solo una minima parte rispetto a quello che realmente gira. Sulle principali motivazioni di dono c'è qualche cosa da aggiungere di interessante che ci racconta un po' di queste figure italiane? Sì. Diciamo così, rispetto alle motivazioni, i dati sono abbastanza conformi a livello internazionale, diciamo così, soprattutto quando si parla di filantropi, quindi diciamo quando si parla di filantropi si parla in genere di donatori con un patrimonio, diciamo, di un certo tipo, quindi le motivazioni principali sono motivazioni prosociali, tipo desiderio di aiutare gli altri o senso del dovere, questa è una possibilità. Le altre motivazioni sono più specifiche delle persone, ad esempio il passaggio intergenerazionale, cioè i passaggi generazionali dei filantropi, quindi imprenditori, persone, diciamo, dotate di un certo patrimonio, si portano appresso spesso anche il passaggio filantropico dal padre al figlio e via discorrendo. Questa è un'altra dinamica interessante. E l'ultima dinamica interessante è quella della restituzione della ricchezza ai contesti, alle comunità da dove uno poi è partito e ha costruito questa ricchezza, diciamo, il senso di restituire ciò che si è, diciamo, fortunatamente costruito, diciamo, in qualche maniera. E questa è un'altra motivazione importante. Torno soltanto velocemente sul discorso della comunicazione. Questo è un paradosso abbastanza, diciamo, italiano, il fatto di non voler comunicare la propria filantropia. Diciamo, negli altri paesi, soprattutto nei paesi anglosassoni, questo chiaramente non capita, o capita, diciamo, meno. Diciamo che qui contribuiscono una serie di motivazioni un po' generali. Una tra queste, che se vogliamo un po' culturale, la demonizzazione un po' della ricchezza. Noi in Italia abbiamo ancora questo discorso, e quindi diciamo che, no, che attiene sia a questioni più religiose, a questioni più laiche. Questo, diciamo, è un po' trasversale, però chi è ricco tende a nascondersi, no? E questo è, diciamo, un quasi tema, come se fosse, insomma, la colpa, il peccato. Esatto. E questo ovviamente è, diciamo, dal punto di vista delle donazioni, della filantropia, è anche, se vogliamo, una criticità, un vincolo, perché spesso accadono questi fenomeni tali per cui uno vede un'altra persona che fa filantropia e donazioni e quindi segue questo comportamento. Se uno resta, diciamo, nel nascosto, nel buio, evidentemente non ci sono mai questi processi un po', diciamo, di crescita. Poi c'è la questione scaramantica, e quindi noi siamo italiani, siamo scaramantici, e quindi diciamo, non diciamo, anche perché poi scateniamo invidi, eccetera, quindi c'è anche questo fenomeno. E poi l'ultimo che mi è parso di vedere nei filantropi che ho conosciuto italiani è questo, la paura di ricevere poi centinaia e centinaia di richieste. E quindi uno dice: sto nascosto, mi metto da parte, così evito di scatenare delle migliaia di richieste. Ecco, questa insomma, è un'altra possibilità. Quante curiosità abbiamo appurato coesistere, insomma, attorno a questi fenomeni, di cui però noi vogliamo prendere assolutamente il buono e il positivo questa mattina. Grazie all'ingegner Carolina Botti per essere stata con noi, grazie al professor Giuseppe Ambrosio, del quale mi piace sottolineare come si sia soffermato prima su tutto il tema della restituzione, che la parola preferita di Nicoletta. Certo. È vero. Restituzione potrebbe essere anche una parola chiave per questo bilancio che di fine anno, perché un anno sta per finire, tutti noi usiamo questo periodo per più obiettivi, nella frenesia della preparazione delle feste, in realtà ci sentiamo un po' come sospesi tra ciò che ci è successo e ciò che vorremmo che ci succedesse nell'immediato futuro. e sarà anche quello che in molti chiamano lo spirito di Natale, Deborah, ma in tanti sentono una sorta proprio di spinta ad alzare lo sguardo, ad andare avanti. Per chi crede è il significato religioso della festività del Natale, per tutti gli altri è una dimensione, direi, più interiore, a tratti spirituali, che ci tocca a tutti, chi più e chi meno. Insomma, è tempo di bilanci, li faremo nella questa seconda parte di trasmissione, e tempo anche per scegliere le parole chiave che hanno guidato un po' il nostro percorso, che ci spingeranno avanti nel prossimo anno, che servono a raccontare chi siamo stati, chi avremmo voluto essere e chi saremo. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi due ospiti. Uno è Alberto Pellai, medico psicoterapeuta. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, ciao Deborah, buongiorno a tutti. Che ci farà un po' da guida e life coach nel nostro percorso individuale, nella sintesi che vorremmo costruire tra il nostro dentro e il nostro fuori. È una cosa un po' complessa, ma Alberto di solito riesce a darci sempre un po' le coordinate per farlo. Però abbiamo, Deborah, un ospite specialissimo che è graditissimo. Allora, come lo presentiamo? Perché è un ospite che tutti voi amate, quest'anno ha dominato classifiche, Airplay musicali, che in queste settimane sta girando l'Italia con una tournée, esatto, che ha praticamente fatto il sold out. Ha pure anticipato in tempi non sospetti la Brexit, ce lo raccontava a microfoni spenti, quindi cioè, un ragazzo lungimirante, direi. ed è infatti un ragazzo, nonostante questo grande successo. Ve lo presentiamo con il suo successo targato 2016. Resta del sole, te lo porto a casa, stasera ho voglia di cantare, di gridare, di abbaiare come un cane, quello che resta da dire, lo diremo domattina. La vuoi cantare tutta oppure lo vogliamo presentare prima o poi? No. Presentiamola. Allora, tu dicevi una delle canzoni più belle di quest'anno. Ma vi offendete voi artisti quando le vostre canzoni così passate dalla radio vengono chiamate tormentoni? Rafael Gualazzi, benvenuto. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Dunque, diciamo che non so neanche cosa voglia dire la parola tormentone, sono molto contento. Però mi piace. Ben venga, insomma. È bella. L'estate perché... di John Wayne. Allora, però Rafael, noi oggi vogliamo usare questa trasmissione, questa puntata, e ci faremo aiutare naturalmente ad Alberto, per fare un bilancio di noi, del nostro anno, del nostro percorso. Iniziamo dal tuo. Nel 2016 tu hai davvero svoltato, è così? Ma diciamo che sono... Un successo incredibile, che ti meriti peraltro. Grazie mille. Diciamo che c'è stata questa canzone che è stata un felice ritorno di un percorso, insomma, che avevo già iniziato anni fa. E ho continuato a fare il mio lavoro come ho sempre fatto, e questa canzone sicuramente ha allargato in un certo senso il pubblico. E niente, quindi sono molto contento che questa canzone, insomma, è stata la ciliegina sulla torta. Perché l'abbiamo cantata tutta e la continuiamo a cantare tutta. Altro che, perché guarda. È proprio, parlavamo di energia, ti fa andare avanti. Ti dà la carica. Allora, noi ti abbiamo voluto qui oggi perché ti vorremmo sempre, perché ci piaci molto, ma perché il tuo nuovo CD ha per titolo tre parole chiave che vorremmo avere tutti un po' nel nostro bilancio di quest'anno. Alberto, ce le racconti? Sì. Love, life and peace. Effettivamente rispecchiano tantissimo anche il progetto musicale di questo CD. È un mondo a 360 gradi, suoni incredibili, testi molto differenti, le diverse fasi della vita, viene raccontata l'adolescenza ma anche l'adultità, ed sono tre parole belle per fare il bilancio di fine anno, perché secondo me nella parola love c'è un po' proprio la dimensione dell'intimità, io e il mio progetto affettivo, nella parola life c'è il proprio progetto di vita, e quindi potremmo riflettere su che cosa siamo riusciti a diventare quest'anno nel nostro progetto di vita. E con la parola peace invece c'è proprio un'apertura al mondo, cioè in questo contesto direi globale, che cosa stiamo facendo per il mondo, che cosa realmente sentiamo, che, qual è il nostro ruolo non solo nel piccolo della nostra vita, ma anche nel grande della vita che ci sta intorno. E conseguentemente, secondo me, tre parole globali, veramente globali, che uno mette lì e dice: allora, io con me stesso, io con gli altri, io con il mondo. Che cosa ho combinato in quest'anno? 800 24 00 24, per fare con noi i bilanci, ma anche per così raccontarvi a Raffaele Gualazio, sapere qualcosa di lui. E Deborah diceva: anticipato la Brexit, perché a microfoni spenti ci raccontava che, insomma, dopo questa felice permanenza a Londra per qualche anno, adesso è ritornato ovviamente in una delle più belle città italiane, che non è la sua, perché quella è veramente bella, Urbino, però insomma Verona non è, sì, proprio male. Verona è una città bellissima, perché porta un pochino quelle che sono le architetture romane, comunque in un contesto molto bello, con tanti paesaggi diversi. I romani non erano stupidi. I romani sì, non erano affatto stupidi. Cioè, vicino c'è un lago, vicino c'è il mare, la montagna. Quindi baricentrica. Insomma, quindi una scelta di vita. Ecco, ma come vive un musicista eclettico come te, perché sei veramente una continua sorpresa, una giornata tipo di Raffael Gualazzi? Ma non esiste perché vi vediamo sul palco, vi immaginiamo a scrivere, esatto, musica, poi se fanno colazione, tutto, pure testi, loro, eccetera. Invece siete persone anche normali. Assolutamente sì. Andate a fare la spesa. Assolutamente sì. Sì, vabbè, adesso vai a fare la spesa. Litigate con qualcuno? Avete le vostre giornate sì e le vostre giornate no? Le giornate in cui dici: non sono riuscito a combinare nulla. Ce le hai anche tu, Rafael? Sì, ci sono assolutamente, insomma, dei giorni, diciamo, dove non si riesce a combinare niente, e ci sono dei giorni invece dove vengono un sacco di sorprese, un sacco di cose belle. E, dipende, quando sei in tour sei molto impegnato, quindi certe volte i tuoi day off, quindi i giorni in cui dovresti riposarti, diventano travel day, quindi giorni in cui viaggi e vai in giro, insomma, fai. Vedi, e anche questa è una cosa di bilancio, Alberto, vedi che ha raccolto un po' il tuo invito per primo. Sì, e credo che in questo momento, tra l'altro, lui è veramente un uomo che ha il giorno del tour e pochissimi travel off, perché i giorni di viaggio, perché hai fatto tantissime date per una tournée sold out. Io sono andato a vederlo e devo dirti che tu vedi, no, questo musicista, ecco, molto timido. Non volevamo svelarlo subito, ma c'è anche questa sorpresina. In incognito Alberto è venuto a vederti e ti ha un po' guardato, osservato con l'occhio da psicoterapeuta, oltre che con quello dell'appassionato. Pensa e del tu fan, quando noi ce l'abbiamo qua, no? Che, ecco, ci guarda in questa maniera. Per cui, vedi, che cosa ci dici di Rafael? Che guarda, sul palco si trasforma. Sì, assolutamente. Eravamo lì io e mio figlio Pietro, lo guardavamo e lo conoscevo un po' per come l'avevo visto, così timido, tranquillo, molto, lo senti proprio con questa voce che accarezza il microfono. Sul palco è un animale da palcoscenico, tu lo vedi che intanto la potenza che esce che trasmette, c'è un'energia. Il teatro era sold out, un sacco di gente in piedi che si muoveva al ritmo della sua musica, questa incredibile energia anche nel suonare il pianoforte, io non me ne intendo, ma era una cosa incredibile. E poi il ragazzo fa anche il comico sul palco, insomma un Rafael Mannaro proprio. Guarda, si trasforma un Rafael Mannaro, ma sentiamolo. From the first time I saw you, babe, it wasn't supposed to be love. It wasn't supposed to be nothing serious between my soul and yours. And the first time I loved you, babe, it wasn't supposed to be war. It wasn't supposed to be something that I wanted each moment, night and day. Sensations I've never felt before, life all around me. Alberto, peace in my mind. Noi prendiamo spunto proprio dall'ultimo lavoro di Rafael per invitare i nostri ascoltatori a innanzitutto a seguirci 800240024, ma anche per attivare una sorta di bilancio. Partiamo dal bilancio di Rafael. Sì, io direi che le sue tre parole, Love, Life, Peace, che sono il titolo del suo tour e anche del suo CD, sono un'ottima guida per fare un bilancio. Potremmo chiedere agli ascoltatori in quale di queste tre parole hanno un bilancio inattivo, per esempio nel corso, hanno avuto il bilancio inattivo nel corso del 2016, qual è magari la parola su cui devono costruire un progetto per il 2017 e se invece vogliono introdurre una un'altra nuova parola. Deborah, tra l'altro, a proposito di bilanci di fine anno, bilanci con le aspettative per l'anno che verrà, c'è un bilancio che proprio oggi è stato diffuso? Sì, da Sole 24 Ore. Esatto, quello che definisce un po' la qualità di vita delle differenti città italiane. Noi siamo andati subito a vedere in che posto si colloca Urbino. 45, aspetta che lo riguardo un attimo. Perché eccoci non qua, c'eri sì. più, non ci 43, sei più 43, Pesaro Urbino 43. La facevi salire. E tra l'altro con tante città del centro Italia, vedo che noi peraltro salutiamo perché sono anche largamente terremotate. Purtroppo in questo periodo al 42esimo posto c'è Ascoli Piceno, al 44 Perugia e Pesaro Urbino è proprio lì in mezzo. Rafael, ci torni? Che rapporto hai con la tua città? Ci torni spesso oppure sì. Ormai sei veronese? No, assolutamente no, sono urbinate anche se vado a abitare in Australia o da qualche altra parte nel mondo, ma credo che ci torno spesso, ho un ottimo rapporto e credo che quella classifica sia sbagliata perché insomma, dove la metti Urbino? No. Ma io al primo posto la no, posso dire che effettivamente Milano è al secondo posto e con quello che dobbiamo raccontare tra poco di Milano proprio come faccia a stare al secondo posto di una classifica nazionale, direi che l'aria non è tanto non aiuta, buona però ci saranno altre variabili che sono i parametri economici che la sostengono in posizioni alte perché anche Torino come non sta granché bene adesso te la cerco un attimo non la vedo qua al volo poi te lo dico dove sta. Allora Rafael, in questa tournée di cui sei protagonista, qual è la città, a proposito di città, che ti ha sorpreso di più oppure la tappa che ti ha colpito al cuore per questo pubblico che ti ama, ti segue e che tu riesci sempre a sorprendere, perché è questo di straordinario che sottolineava Alberto, perché sei camaleontico. No, diciamo che secondo me una persona che comincia a fare musica ha dei problemi, perché il nostro dottore ce lo può confermare. Uno, perché con i tempi che corrono non è sicuramente il mestiere più retributivo, diciamo. Quindi, e poi la seconda cosa è perché devi passare tanto tempo davanti a uno strumento, suonare, insomma. Comunque non volevo adesso soffermarmi su questo aspetto. Credo che sia un mestiere meraviglioso e che ti dà la possibilità di vivere tutte le tue personalità nelle tue canzoni, sul palco. Quindi credo che il momento della musica dal vivo sia veramente un momento meraviglioso. Anche i mercati sono dal vivo a cuore denaro. Sempre live, lo sai che io sono incollata a questa sedia davanti a questa piattaforma praticamente. Andiamo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Quando mai io sposare, twill be just you and me. No, non solo Rafael Mannaro, ma pure Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Esattamente quello che stavamo dicendo con Alberto, perché Rafael riesce a ogni canzone che interpreti potresti essere un Rafael diverso. È così, infatti Deborah non ti ha riconosciuto. No, infatti dico, ma sei tu? Sei tu Rafael Mannaro. Come si fa? Ma diciamo che. E perché questo? A me non interessa di essere riconosciuto, cioè mi interessa di suonare il pianoforte, scrivere le mie canzoni e divertirmi col mio pubblico, quindi questo penso che sia la cosa più importante. Poi, ovviamente, alcune volte mi si riconosce di più perché ci sono delle canzoni che possono avere un'affinità, ma amando da musicista tanti mondi musicali, non vedo perché dovrei rinunciare. E quindi mi diverto, diciamo, a passare da una sonorità a un'altra della voce. Per me la voce è come uno strumento, anche perché non ho mai studiato e ho sempre studiato la voce, insomma, da solo, quindi quindi quello che viene fuori è, diciamo, l'amore per la musica e credo è per diversi generi musicali. E qua mi piace. E a proposito di lavoro, Deborah, allora Rafael diceva in un'intervista sul Corriere della Sera: qui non c'è continuità, riferendosi all'Italia, fra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro, e questo perché la musica non è considerata un lavoro. In Francia per esempio non è così, i musicisti anche non famosi sono sostenuti con varie forme di sovvenzione. Dovremmo guardare all'estero, comprendere che la musica è un patrimonio culturale importante che merita di essere riconosciuto. Insomma, vi sentite un pochino, non dico bistrattati, ma non considerati nella misura adeguata, soprattutto gli emergenti, ovviamente, perché poi chi parte... Guarda, no. non voglio fare la solita predica, però credo che sia molto importante, ricordarsi che la musica è un patrimonio culturale importante. Molte nazioni, insomma, vivono la musica come un patrimonio culturale e l'appoggiano, la sovvenzionano proprio perché diventa quasi un orgoglio proprio della propria nazione. Noi spesso e volentieri quasi nascondiamo alcune parti della nostra musica. Se pensi che in Francia ci sono tante stazioni radio dedicate alla musica jazz, ad esempio, alla quale gli italiani hanno contribuito tantissimo, o in altre, voglio dire, nazioni europee ci sono un sacco di televisioni anche che dedicano spazio proprio a questo genere di musica. In Italia, per esempio, spesso e volentieri viene un po' ghettizzata, insomma, questa musica. Si trovano dei programmi soltanto a tarda notte, oppure non ci sono proprio delle emittenti dedicate a questo genere musicale, quasi fosse qualcosa un pochino lontano dalla nostra cultura. Invece, se si pensa che il primo musicista che ha registrato un disco jazz nella storia aveva un cognome italiano, e si tratta di un siciliano americano che in America ha registrato con la sua, diciamo, piccola orchestrina, Nick La Rocca, ha registrato il primo disco jazz della storia ed era di origine siciliana. Vedi? Però devo dire che anche noi abbiamo delle vetrine per la musica. Sicuramente sì, però in generale in Italia è sempre come dire che se fai il musicista di lavoro cosa fai? Perdi tempo, esatto, infatti. Sì, però in genere l'artista è un po' etichettato, sì. Ma io vi porto perché, ma lui non mi ha seguito, ma io gli ho dato la palla per dire: abbiamo delle vetrine, perché noi vogliamo andare a Sanremo, perché abbiamo un'amica che ci aspetta. Ma non è che è là pure adesso, no? Sì, Marta Cagnola, ciao! Buongiorno, certo, come non è là pure adesso, dice Debra, ma non sentite qua che c'è proprio questo caldino della Liguria? Ecco, brava, portane un po', va. Adesso poi chiederemo a Mauro Mocci, che ci farà un po' la panoramica della qualità dell'aria in giro per lo stivale, che aria respirerai tu. Ma io ti volevo dire che ti ho comprato il cappello, Ah, grazie! Sì, l'ho trovato. Per cui avrai anche tu. Ecco, questa qua prende il sole, esatto. Che non è che facciamo finta in diretta noi. No, no. Noi siamo così davvero. Sì, purtroppo. Un bel cappello che aveva la Nico, ho detto: oh, te lo compro anche a te. E così, esatto. Noi siamo così, no, davvero. Un colbacco, parliamone. Un colbacco. Ecco, e poi parliamo. Noi che siamo le nostre scelte. Sembriamo dei funghi. Dobbiamo fare due chiacchiere in privato poi. Abbiamo bisogno. Ci facciamo un selfie e lo twittiamo senza, ecco, vergogna. Abbiamo, ce l'ho, abbiamo bisogno di Alberto. Senti, Marta, che ricordi hai di Rafael nel primo Sanremo? Perché... Oh, che ridere, uno bellissimo. A un certo punto gli ho chiesto: ah, ma tu Sanremo lo guardi, l'hai guardato? E lui mi ha detto: no, guarda, io non lo guardo perché mi sono appena trasferito a casa, non ho ancora avuto tempo di comprare il televisore. E io gli ho detto: ah, da quanto tempo sei trasferito? E lui mi ha risposto: 3 anni. Vedi, quando dicevamo gli artisti, diciamolo, non hanno tanto i piedi per terra, se no che artisti sarebbero? Adesso l'hai comprato la TV oppure no? Adesso sono in affitto in un posto dove è molto carino l'appartamento, soltanto che il televisore ronza, quindi l'ho acceso e poi l'ho spento. Non vuole pagare l'abbonamento lui, vuole pagare quell'abbonamento, ma vedrai che la società della luce e dell'energia lo trova lo stesso. Chiusa parentesi. Marta, secondo te c'è un nuovo Rafael Gualazzi tra i concorrenti di quest'anno? C'è qualcuno che allora ti colpisce, no, per talento, presenza? Alberto, aggiungi tu, perché sei un esperto di musica. Ma direi poi l'altra cosa è la versatilità della voce, perché Rafael ha proprio questa, ha l'arcobaleno nella voce. Ah, che... Allora, di Rafael Gualazzi ce n'è uno e tutti gli altri sono nessuno. Vorrei anche ricordare che ci ha fatto ritornare alla grande all'Eurovision, dandoci un'emozione, unica. Devo dire, ci sono dei ragazzi che secondo me possono crescere, possono darci qualcosa di carino. Mi piacciono i La Rua, c'è Maldestro che ha delle cose divertenti, c'è una canzone sull'ansia che vi consiglio di ascoltare. Io ieri mattina ho incontrato qui a Sanremo tutti i ragazzi che questa sera faranno la finale, però devo dire la verità, dopo averli incontrati adesso sono in crisi perché vorrei che passassero tutto il turno. Certo. Li conosci, sì, perché li conosci, senti le loro storie, perché dietro, cioè, non è solo una vetrina, un palcoscenico, dietro ci sono delle vite, c'è un investimento di anni, di sogni, di è difficile per me dire per chi tifo, perché stasera così mi spiacerà per quelli che sono eliminati. Vi posso dare solo due indicazioni tecniche, perché so che a casa piace sapere cosa succede, come, dove, quando, soprattutto a che ora. Allora, questa sera su Rai 1 alle 21:35 inizia la finale dei giovani. E daranno anche i nomi dei big. Cominceranno a darli a mazzetti di 5 i nomi dei big, che saranno 22. Li avremo tutti entro le 22:30-23. Sapremo chi saranno i big del prossimo Sanremo. Invece entro le 23:30 avremo proprio la chiusura della finale dei giovani. Ottimo. Quindi si fa un po' tardi stasera. Dai. Vabbè, tu sei abituata, quando stai là fai i notti. Poi, no, ma poi Marta torna da Sanremo e c'è subito gli Oscar. Ha quella famosa settimana di febbraio, giusto, che è un incubo. Sì, esatto. Meno male che la raccogliamo col cucchiaino alla fine, però ce la fa sempre. Meno male che avrà il mio colbacco. Un colbacco magico. Col colbacco. Grazie Marta. Grazie Marta, ciao. Grazie, presto, ragazzi, torna. Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao. E anche Rafael comunque in questo periodo di fine anno sarà molto impegnato nella sua tournée. Sì, che lui stasera non può vedere il programma, perché a Milano ha un sold out al Teatro Nazionale. Nazionale, sì. E come tu vai, quanto tempo prima vai dello spettacolo? Vi ripreparate, risuonate tutte le volte, oppure insomma il repertorio è quello, sapete già la serata, andate lì e si suona? Anche perché tu improvvisi molto. Sì, però per improvvisare bisogna essere molto preparati. Esatto, ci sono delle prove, c'è un sound check sempre verso le 5:30-6 del pomeriggio, così. Dove si fanno 3 o 4 brani, così, e poi si decide se c'è qualcosa da aggiungere, se si vuole cambiare la struttura di qualche brano, a seconda insomma di come è anche il vibe del teatro, insomma la sensazione del posto dove si è. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Torniamo subito tra poco. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Cuore e denari. Life. You have never changed. Things are still the same as they were. And I've never known you. No. Cuore Denari, Rafael Gualazzi insieme ad Alberto Pellai. Rafael, nei tuoi spettacoli parli anche dei brani che suoni, e se dovessi raccontarlo agli ascoltatori che già ci scrivono che stasera verranno a Milano ma poi potranno seguirti in altre tappe che ricorderemo, che cosa racconteresti di questo brano? Dunque, questo brano è una sorta di inno alla solitudine, ma non nella sua accezione negativa, come dimensione quasi necessaria per alcune volte per chi fa il nostro mestiere, insomma chi ha un mestiere creativo, per poter accendere la luce sulla propria intimità e quindi su quello che sono i propri ricordi e quindi... Diciamo che ci sono dei momenti in cui la solitudine è una emozione insomma, importante da vivere così. E io l'ho descritta in questa canzone, così come... Alberto, ma questa è un'indicazione importante per il nostro bilancio. Ma vedi l'avevamo, come tutto torna. Guarda, sembra che gliele abbiamo messo in bocca noi queste parole. Avevamo proprio scelto All Alone come il brano per eccellenza per fare un po' questo lavoro di revisione del proprio anno che sta per finire, ed è proprio una canzone che tiene un po' dentro, che tiene insieme il dentro e il fuori. A questo inizio sembra quasi gospel, poi si apre, e trovo che tenere un brano così meditativo, che così ispirazionale, possiamo usare questo di sottofondo nel ripensare un po' quello che siamo stati nell'anno che sta per finire, nell'immaginarci quello che saremo nell'anno che verrà. E probabilmente io credo che la musica sia davvero il sottofondo ideale nel momento in cui noi dobbiamo imparare a narrare noi stessi a noi stessi, che è una di quelle cose che facciamo ormai pochissimo e che effettivamente ha ridotto tanto lo spazio di meditazione su di sé. Abbiamo anche il conforto delle neuroscienze a questo proposito? Assolutamente, le neuroscienze ci dicono che quando ascoltiamo la musica abbiamo delle aree che si attivano nel nostro cervello, che sono poi aree che hanno tanti collegamenti neuronali proprio con la zona dei lobi frontali, che sono quelle zone dove noi aumentiamo la dimensione che si chiama autoriflessività, cioè capacità di riflettere su noi stessi. Salutiamo Valeria, sì, che dice: ditegli a Rafael che nonostante io domani mattina abbia il turno alle 5:30, stasera sono al nazionale. Grazie. Vabbè, Valeria va. A Valeria va rivolto un saluto speciale. Allora, anche Mauro ci scrive: buongiorno, saluto a Rafael, mia figlia Valentina chiede di tornare a Caffè Nero e di salutarlo. Rafael, però Valeria viene a sentirti come i tanti milanesi a Milano, ma poi la tua tournée continua? Sì, assolutamente, avremo domani Trento. C'è Trento, sì. Vedi come è preparato. Auditorium Santa Chiara, il calendario. Esatto. E poi ci saranno il 22 Reggio Emilia e il 23 dicembre, sempre Cesena. Poi all'ultimo dell'anno saremo a Sassari. Ah, ecco. Vedi, una città che io non posso pronunciare con tutte queste S. Ma raccontami solamente... Puoi dire Tattari anche. Tattari, Sassari. Come i bambini. Senti, e il granchio? Tamatoa. Ecco, il mitico Tamatoa. Praticamente ho dato la voce a questo... Come fa? Come dice Sassari il granchio? Non lo dice. Cosa hai prestato dice? Anche la voce a questo granchietto? Sì, ma granchietto è un granchione. Granchione. Sì, granchione. Anche il nome imponente, no? Sì, sono dovuto entrare un pochino nel personaggio di questo granchio, che è praticamente l'opposto di quello che sono io, ovvero proprio egocentrico, vanitoso, cattivissimo, proprio cattivo. E, quindi, insomma, è stata un'esperienza fantastica, perché vedi che il nuovo film di animazione della Disney, sì. Si chiama Oceani, ecco, così tanto per spiegare ai nostri ascoltatori che anche penseranno... Anche questo è un bel esercizio, provare a essere altro rispetto a quello che ci sentiamo, Alberto. Ma io credo, Alberto, che lui con questa versatilità che ha nella voce poteva fare probabilmente tutti i personaggi del cartone. Allora, noi siamo in chiusura in questa trasmissione, sì, in cui abbiamo fatto un excursus tra mecenati, filantropi, musicisti, artisti, la musica, i bilanci, però facciamo anche un bilancio della qualità della nostra aria, che è un bilancio purtroppo negativo. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Mauro Mocci, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Allora, intanto inauguriamo un appuntamento settimanale, anzi il lunedì, il mercoledì e il venerdì il dottor Mocci tornerà a Cuore dei Danari per raccontarci un po' la qualità della nostra aria e anche darci delle indicazioni. Come sta andando, dottor Mocci? Camere a gas? Sta andando male, ma sta andando come da previsioni, e ormai lo sappiamo, quando è questo periodo tutti gli anni cominciano a scattare provvedimenti perché si superano i livelli di inquinamento, quelli stabiliti dalla legge, e si superano i giorni di superamento dei livelli, perché quindi un film già visto, giorni. Dottor era Mocci già, era già la ecco, storia visto di una, e previsto. La cronaca di una morte annunciata, per parafrasare, perché lo sappiamo. Allora, i provvedimenti non possono continuare ad essere presi all'ultimo momento, quando si sono superate le soglie. Tanto sapendo già che sarebbe successo questo, i provvedimenti andrebbero presi un po' prima e andrebbero fatte delle politiche un po' più sostanziali. Questa un po' come concrete, premessa, perché... dottor Mocci, sì. Ma ormai quello che è fatto è fatto, no? È anche fatto, quest'anno fatto. Ci siamo fatti scappare questa occasione. Però noi abbiamo... Ecco, quali sono? Usiamo di nuovo il nostro semaforo, giallo, rosso e verde. No, abbiniamo... guardi, allora io veramente questa mattina non ci sono, no, semafori purtroppo. Verdi, non ci sono purtroppo, a parte eccezioni, ovviamente al sud va un po' meglio che al nord, perché noi sappiamo che il nord dal punto di vista dell'inquinamento del particolato ultrasottile è più critica la situazione, ma abbiamo delle città veramente non rosse, rossissime, perché hanno mai superato, il limite massimo dovrebbe essere 35 giorni nell'anno, però ovviamente c'è l'anno del calendario e alla fine arriviamo sempre che hanno superato. Abbiamo Torino, Milano, Cremona, ma un po' tutto il nord sta superando, con ecco, anche il sud, il centro, anche Roma, Urbino, che è la città natale, sì, di Raphael Gualazzi, che lui metterebbe al primo posto nella classifica delle città dove però si vive meglio. Per l'inquinamento, con la colpa un po' del tempo, di questa alta pressione, e per l'inquinamento che c'è ormai da tempo, soprattutto quello autoveicolare in alcune città, e abbiamo anche delle situazioni del sud. Quindi i provvedimenti di sospensione dell'uso dell'auto o di determinati tipi di auto in questi giorni purtroppo non dà soluzioni, non risolve il problema, dà soltanto forse qualche disagio attenua, abbassa per quel giorno i livelli, ma però poi ci ritorna. Ritroviamo, allora, ci quindi profondo dopo. Rosso per la qualità dell'aria. Il dottor Mocci torna mercoledì. Meno male che c'è Raphael Gualazzi che ci fa prendere una boccata, no, d'aria buona, di respiro con la sua musica. Grazie per essere stato con noi. Grazie, Raphael. Grazie. Ci sono già le persone che vogliono qua il tuo autografo. Un abbraccio, grazie per averci seguito. E noi torniamo domani. Buona giornata a tutti. Wasting our time loving each other down at Mondello Beach.